per iniziare. Balkan Rock. Radio Beograd, prvi program. Radio Zagreb, Sarajevo, Titograd i Novi Sad. Veselo veče. Za službena putovanja koristite prednosti prevoza avionima JATA. Novo imenovanog, izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sovjetskog saveza u Jugoslaviji. Sve mladiće volim, kako da odolim. Zeleno tražim. Mi smo more krvi proljeli za bratstvo i jedinstvo naših naroda. Utakmica između Partizana i Hajduka. Raz, dva, tri, majčeki! Plamene zore, Balkan Rock, kude verista, Sumaj Radio, fabrična jutra, muzika, pop kultura e curiosità dal mondo jugoslavo. Balkan Rock, buona domenica a tutti, benvenuti a Balkan Rock, buona domenica di sole, splende il sole su Torino. Sì, una bellissima giornata, bentornati a Balkan Rock, un saluto anche da Duško e abbiamo il nostro ospite ormai fisso, sei spesso da queste parti, Eric. Abbiamo con noi Eric Gobetti. Ciao, ciao a tutti. Finalmente Eric, tra l'altro in veste ufficiale, perché l'ultima volta che abbiamo avuto Eric Gobetti si è rotta la radio. Vabbè, speriamo. Porto sfortuna, evidentemente. Per adesso regge tutto. Per adesso siamo regge qua, tutto. Ci lo sentite, streaming spero. C'è, tutti ci sentite. Abbiamo un po' di ascoltatori, abbiamo la disco richiesta. Però prima di tutto partiremo con un pezzo d'altri tempi. Senza dire niente sulla puntata, teniamo ancora la suspense sull'argomento. Vediamo se qualcuno indovina. Va bene. Facendo partire il prossimo pezzo. Vai. Questo qua è proprio un pezzo. Come avete potuto notare, stiamo facendo passare Strauss con la marcia di Radetzky. Siamo impazziti, oggi facciamo Austrian Rock. Anzi, Austro-Ungarian Rock d'altri tempi. Esatto, rock d'altri tempi. Rock dei soldati imperiali austriaci. Questa era veramente la musica popolare per antonomasia nell'impero austro-ungarico, è proprio l'equivalente di Madonna o di Shakira oggi. Addirittura. Certo. È vero, ha ragione. Allora, vabbè, avrete capito che è un argomento storico quello di quest'oggi, quindi insomma, facciamo una puntata seria. No, questo non credo. È impossibile. Questo non credo che sia possibile, infatti. No, però andiamo a parlare di Sarajevo Rewind, il documentario di cui abbiamo già parlato ormai un annetto fa, proprio ancora prima, quando era ancora in stato embrionale, era ancora solo una sceneggiatura, una serie di bozze. Invece adesso questo documentario c'è, sta per essere, insomma, già in fase di montaggio, è già stato girato, è già in fase di montaggio, e quindi ripercorriamo, insomma, le tappe che Eric e il suo compagno di viaggio Simone Malavolti hanno percorso per realizzare questo documentario. Dunque, siete stati anzi facciamo un passo indietro, perché magari non tutti gli ascoltatori hanno ascoltato la puntata in cui raccontavamo che cos'è Sarajevo Rewind. Allora, Sarajevo Rewind è una follia sostanzialmente. C'è un'idea che abbiamo avuto appunto io e Simone di come dire, celebrare il centenario dell'inizio della prima guerra mondiale e in particolare dell'attentato di Sarajevo attraverso un viaggio, anzi due viaggi, cioè ripercorrendo i due tragitti che hanno portato la vittima, l'attentatore dell'attentato di Sarajevo, a Sarajevo il 28 giugno del 1914. E quindi quest'estate, tra giugno e luglio, abbiamo ripercorso i due tragitti. Io personalmente ho interpretato, diciamo così, ho ripercorso la strada di Francesco Ferdinando, quindi partendo da Vienna e poi dunque Trieste, Metković, una località che una volta era un porto fluviale, oggi non più, in Croazia, e Mostar e poi Sarajevo. E invece Simone Malavolti ha percorso il tragitto di Gavrilo Princip, l'attentatore, partendo da Belgrado e poi attraversando alcune località di confine sul Shabat, sulla Sava, e Loznica sulla Drina, poi Tuzla e Sarajevo. Ma quindi qual era l'obiettivo? Cioè, è una storia spesso molto schematizzata, no? Quella dello scoppio della prima guerra mondiale, dove appunto ci sono le due parti, c'è l'attentatore che fa parte del gruppo terroristico, c'è appunto l'erede, insomma l'imperatore che viene in visita, però diciamo con questo viaggio che poi si incrociano le strade dei due personaggi a Sarajevo, cosa volevate, quali sono gli anfratti storici, diciamo, non affrontati dalla storiografia ufficiale che voi volevate andare ad indagare? Ma dunque, noi siamo entrambi degli storici e non siamo dei filmmaker professionisti, diciamo, però in questo caso abbiamo voluto fare un film, cioè quindi abbiamo ripreso questi nostri viaggi, abbiamo ripreso le località attraversate dai due protagonisti e abbiamo, diciamo, fatto delle interviste lungo il tragitto, sia a persone incontrate lungo la strada, sia invece a intellettuali, storici, nostri amici, conoscenti che siamo andati proprio a interrogare appositamente. L'idea però, diciamo, non era tanto quella di ricostruire le vicende storiche in sé di 100 anni fa o di proporre un punto di vista diverso, un'interpretazione diversa dei fatti. A noi interessava un po' capire com'è oggi la memoria di questo evento, dell'attentato in sé, dei due protagonisti dell'attentato, e un po' come sono diventati i posti che 100 anni fa erano stati attraversati da questi due personaggi, quindi vedere, giocare un po' sul somiglianze e differenze, diciamo, degli stessi luoghi nel corso di 100 anni e con tutta la storia che c'è passata. Bene, quindi avete incontrato, immagino, moltissime persone che hanno, diciamo, una percezione diversa su quella parte della storia dei Balcani che, insomma, poi dopo andremo sicuramente a vedere. Adesso, dopo questa premessa, sentiamo un altro brano. Cosa abbiamo sul piatto? Abbiamo sul piatto un'altra canzone, un'altra ormai chicca storica. Sì, partiamo in pompa magna questa volta. Esatto, un'altra chicca storica, un'altra canzone popolare d'altri tempi. Hey Sloveni. L'intro è un po' così, un po' fuori dall'epoca. Epico, sembra il Signore degli Anelli. Allora, ha durato molto poco questo inno jugoslavo e i sloveni l'abbiamo messo subito dopo la marcia di Radetzky per un motivo molto, molto banale. che però non sai, adesso lo racconto io, no? È una scelta mia, naturalmente, in questo, posso caso. Posso immaginare, in realtà, no? Sentiamo la mia interpretazione, vai, perché vai. In realtà questa, almeno la prima parte della scaletta, è stata fatta da Eric. La mia interpretazione è che, dopo la prima guerra mondiale, coloro i quali facevano parte dell'organizzazione Mlada Bosna erano di stampo, insomma, panslavista, no? Organizzazione di stampo panslavista, e quindi dopo, no, l'impero austro-ungarico, l'unione dei popoli slavi del sud. Mi sono commosso, bravissima. No, beh, insomma, è abbastanza vero, dai. No, la mia idea era, diciamo, così, un po' per par condicio, anche da, abbiamo sentito appunto il pezzo popolare per antonomasia dell'impero austro-ungarico, nel senso anche in qualche modo ufficiale del termine, e dall'altro abbiamo sentito questo pezzo che in realtà è diventato l'inno jugoslavo negli anni 70. Molti di noi fanatici dei Balcani lo conosciamo per questo, ma in realtà è un pezzo popolare che appunto risale alla seconda metà dell'Ottocento e nasce attenzione, questo non lo sapevo. Sì, e nasce come inno panslavo, appunto, quindi non jugoslavo, cioè non per gli slavi del sud. Addirittura è stato scritto in realtà da un cieco, e quindi nasce proprio come un inno di unificazione degli slavi, di tutti gli slavi, in particolare degli slavi dell'impero austro-ungarico. Quindi, certo, cechi, boemi, slovacchi, ma anche sloveni, croati, bosniaci, eccetera. E in quegli anni, negli stessi anni in cui appunto la canzone popolare di massa era la Marcia di Radetzky, dall'altra parte c'era invece era molto diffusa negli ambienti sovversivi slavi dell'impero austro-ungarico questa canzone, come canzone di rivolta, di unificazione dei popoli slavi contro l'impero austro-ungarico, quindi in senso nazionale, diciamo così, di unificazione degli slavi contro l'impero austro-ungarico. Appunto, soltanto molti decenni dopo è diventato poi inno ufficiale dello Stato jugoslavo. Interessante. Invece, tornando al tuo viaggio, volevo chiederti appunto quali erano le tappe principali che hai fatto partendo da Vienna, giusto? Esatto. Ok. Quali erano le tappe? Chi sono, diciamo, i personaggi chiave che hai incontrato, e diciamo, se puoi sintetizzare, se puoi, diciamo, riassumere un po' i loro punti di vista? Sì, dunque, noi in realtà appunto abbiamo le tappe fondamentali, come dicevo, sono Vienna, Trieste, Metkovic e Mostar. Ora, a parte Metkovic, dove in realtà abbiamo fatto una sosta molto rapida per riprendere il luogo dove è sbarcata all'epoca Francesco Ferdinando, in realtà aveva viaggiato in nave da Trieste fino a Metkovic, quindi a Metkovic era sbarcato e c'era appunto questo porto fluviale, poi aveva preso il treno che da lì portava verso Sarajevo, la ferrovia che esiste ancora oggi, che era stata inaugurata da pochi anni in realtà in quell'epoca, anche questa frutto dell'impegno, diciamo, austro-ungarico di ammodernamento della Bosnia-Herzegovina. La cosa interessante di Metković, scusate se parto da questa piccola località, ma che ci ha particolarmente colpito, è che oggi, dopo 100 anni, quel tragitto in treno non è più possibile farlo, perché la linea ferroviaria da Metković a Mostar è interrotta. E si stava meglio quando si stava peggio. Sì, beh, c'è questo elemento dell'impero multinazionale, che era l'impero austro-ungarico, che nel bene e nel male però consentiva un traffico di merci e di persone molto più facile rispetto ad oggi. E oggettivamente oggi c'è un confine di Stato tra Croazia e Bosnia, e quindi anche questa ferrovia non viene più utilizzata. Assolutamente, è una cosa, è quasi, come dire, un luogo comune, una cosa che si dice tra la gente. Questo l'hanno costruito gli austriaci, quindi, come per dire, durerà in eterno. Ma è abbastanza vero. Devo dire, lungo il mio tragitto, un elemento che ho notato, che ad esempio è molto diverso dal viaggio del mio collega tra Serbia e Bosnia, è che la maggior parte delle infrastrutture che c'erano 100 anni fa, dove è passato, attraverso cui è passato Francesco Ferdinando, esistono ancora oggi, ma nella maggior parte dei casi sono abbandonate. E questo riguarda già il caso di Trieste, cioè la prima tappa, dove la stazione ferroviaria dove era passato appunto, era arrivato col treno Francesco Ferdinando, esiste ancora, ma è diventato un museo ferroviario e non è più utilizzata. Quella stazione in realtà era stata ideata proprio perché l'attuale stazione centrale di Trieste, che esiste, esisteva anche 100 anni fa, portava però verso l'Italia, diciamo. E invece gli austriaci volevano una stazione che portasse verso l'impero, verso nord, e avevano costruito apposta questa stazione e questa linea ferroviaria che attraverso Gorizia, la Slovenia, andava fino a Vienna. E come ci ha raccontato il direttore del museo ferroviario, questa stazione serviva anche per portare la torta Sacher fresca da Vienna fino a Trieste. Che buono! Insomma, anche per questi scopi edonistici, diciamo, non si faceva mancare niente l'aristocrazia austro-ungarica. Bene, quindi questa è la tappa di Metković, invece le altre... Sì, dicevo, dunque, a Vienna in realtà curiosamente abbiamo intervistato soprattutto personaggi jugoslavi, perché un elemento che ci ha colpito di Vienna, dell'Austria in generale, è che non, come dire, non c'è una memoria storica particolarmente sentita dell'impero austro-ungarico e tantomeno di Francesco Ferdinando, un personaggio quasi del tutto sconosciuto, e mentre invece c'è una presenza di immigrati molto forte a Vienna, in particolare gli immigrati dal sud-est europeo e in particolare dall'ex Jugoslavia. E quindi attraverso i miei contatti, anche che sono prevalentemente di tipo balcanico, mi è capitato di intervistare un artista serbo che vive a Vienna, in realtà che è nato a Vienna, quindi un artista lui si definisce un artista austriaco, in verità di origine jugoslava, come è giusto che sia. Giustamente. Che ha fatto ha realizzato un'opera proprio quest'anno, diciamo relativa all'attentato di Sarajevo, in cui ha rifatto la prima lapide che segnava, diciamo, che era stata messa nel luogo dove c'è stato l'attentato di Sarajevo, la primissima, cioè quella fatta, diciamo, nella prima Jugoslavia tra il 18, che è rimasta quindi in piedi tra il 18 e il 41, e che ovviamente era elogiativa di Gavrilo Princip come un eroe che aveva liberato il paese dall'oppressione austro-ungarica, e che ha una storia particolare perché questa lapide non esiste più. Infatti lui l'ha rifatta, diciamo, come gesto artistico, ma questa lapide non esiste più perché nel 41, quando la Bosnia-Herzegovina è stata occupata dai nazisti, i nazisti come prima cosa l'hanno tolta, e addirittura esiste un cinegiornale che potete trovare su YouTube in cui si vede questa scena in cui i nazisti tolgono la lapide dal muro e l'hanno regalata per il compleanno di Adolf Hitler al Führer. Caspita, e dopodiché è scomparsa dalla circolazione, quindi non si sa che fine abbia fatto, probabilmente è stata distrutta, però ci sono anche queste foto in cui la donano in regalo a Hitler. Curioso, veramente. Quindi poi dopo Vienna siete andati a Trieste invece. Sì, dicevo, a Trieste abbiamo realizzato delle interviste con alcuni storici locali. Va detto, diciamo, da questo momento del viaggio in poi bisogna raccontare anche un dettaglio dell'epilogo del nostro viaggio, perché noi appunto abbiamo realizzato queste riprese e questo viaggio con l'idea di fare un documentario che adesso stiamo montando. Però abbiamo avuto un evento drammatico, direi così, a Sarajevo, proprio il 28 giugno, il giorno dell'attentato. Beh, questo è abbastanza indicativo, eh? Sì, infatti, io che interpretavo Francesco Ferdinando, peraltro, questa volta non mi hanno sparato, ma ho subito un furto, e quindi sono entrati nel camper. Noi viaggiavamo in camper, la nostra piccola troupe composta da 4 persone, viaggiavamo in camper e siamo stati derubati, e ci hanno rubato anche le riprese che avevamo fatto nei giorni precedenti. Quindi purtroppo queste interviste che abbiamo fatto a Trieste e poi a Mostar sono state rubate, non le abbiamo più. Abbiamo poi rifatto delle riprese ritornando indietro negli stessi luoghi, ma purtroppo le interviste di queste due località sono andate perse. Va bene, allora io andrei ad ascoltare il prossimo brano. Tra l'altro vi lascio con una domanda che il nostro ascoltatore preferito, uno dei nostri ascoltatori preferiti, ci pone sul gruppo Facebook. Chiede Diego: il panslavismo è morto? È vivo e lotta insieme a noi? È da dimenticare? Si è spostato geograficamente? È la Russia? È l'Ucraina? È l'abisso Plutone? Lo chiedo ai tre ministri della comunicazione di Balkan Rock. Quindi vi lascio con questi quesiti e andiamo andiamo ad ascoltare un pezzo, un brano molto molto interessante dedicato proprio a Gavrilo Princip. Loro sono i Srpski Rep e il pezzo si intitola proprio Gavrilo Princip, un pezzo appunto sull'intricato e complicato personaggio di Gavrilo, di cui andremo a parlare tra l'altro fra poco. Ja potičem iz doba, dosta pred Boga, okovi oko vrata, rođen u koži roba, od lijeka bjegova, vođen s verom u Boga, stvoren da oslobodim tebe toga, voleo sam život, žale što ih nisam imao više, umroz ideale, istorije moje ime piše, 18.9.4.25. jula, bačeno sem iz kopčenih kruti lobanja kula, ja sam iz Grahovog polja na brdovitom Balkanu, što stavlja sora rano da pekovi stanu, izbrojali dane, posljednje turske dane, sve glave što su jednom promenile strane. Ljubinsku te vola, vodim ljubav s njom, spremio napadu, napred znam odgovor, kao samo bilić, reč svoju sada dajem, uputio se svevišćem pa više nestajem. Kada padne mrak, ja grebe na zidu trance, zveri neka nosi rad. Vodim te na ovaj trip, legendi li mi, reci moje ime glasno, Gavrilo Princip, Gavrilo Princip. Vodim te na ovaj trip, legendi li mi, šepočući svaki stih. Reci moje ime glasno, Gavrilo Princip, Gavrilo Princip. Ja nisam bio ubica, znam odlično krivca, svo zlo sveta krije se iza jednog lica. Ja sam mladi bosanac, vođen crnom rukom, za slobodan hod Sarajevom, Banja Lukom. Demon doći će, a ceo svet čuće, ponaša se kao da je kod svoje kuće. Uplašeni od zla, iz bureta bez dna, bio otor koji im je jedan Hasburg da. Kolona pokonika demonstrira sinu vojnika, pohabani prizor na svet, naša je slika. 28.1.9.1.4. bude se heroji stari video danski nemiri. N9.10 u mokvi ruci, spravit ću ga u idealnoj prilici. Mogo mati, oprosi što će sada satovi stati, tu na puću stati, počeo rad neka svet shvati. Kada padne mrak, ja grebem na zidu trance, zveri neka nosi vrak, vrak. Vodim te na ovaj trip, legend ili mit, šapočući svaki zdi. Reci moje ime glasno, Gavrilo Princip, Gavrilo Princip. Vodim te na ovaj trip, legend ili mit, šapočući svaki zdi. Reci moje ime glasno, Gavrilo Princip, Gavrilo Princip. Ali to ne popravlja moje psihičko stanje, ne mogu da ugasim unutrašnje dranje. Lance nikad teže, moje telo zatvoreno leži, utisci su seži, od prošlosti ne bežim. Na moju nesreću nisam bio punoletan, umjesto kugle dosudiše mi 20 leta. Najgore je svega što me sada nema na bojištu, da podelim sudbinu, majcu pružim zaštitu. Raspadam se polako, merim manju 30 kila. Moje priči dolazi kraj, zove me viša sila. Nadam se da ću još čuti zvona pobede, ujedinjene narode na putu slobode. Očekujem za braću, sestre, zaloga i sreće, stazama mira do perspektive veće. Tišina, blagostanje, daleko od demona, krvlju poliveno seme, doživljava ekstazu iznova. Kada padne mrak, ja grebe na zidu trace, zdravi neka nosi rad. Vodim te na ovaj trip, legendi li mi, reci moje ime glasno, Gavrilo Princip, Gavrilo Princip. Vodim te na ovaj trip, legend ili mit, šapočući svaki zdih. Reci moje ime glasno, Gavrilo Princip, Gavrilo Princip. Tromo se veče vuče i ničeg novog nema, danas je kao juče, sutra se isto sprema. Al pravo je preveku žera ić soko sivi, ko hoće da živi nek mre. I umjesto da smo u ratu gdje bojne bombe ječe, evo nas u kazamatu, na nama lanci zveče. Svaki dan isti život pogažem s nječem crk, ja nisam idiot, za mene je to sve. E questi erano i Srpski Rep con Gavrilo Princip. Quindi andiamo insomma brevemente a rispondere al nostro Diego sulla sua domanda. Prego Dule, avevi qualcosa da dire sul pandelavismo? Cioè non molto, a dire il vero. Cioè, semplicemente cosa è rimasto oggi? Cioè, la mia percezione, ovviamente personale, è quella che non è che sia rimasto molto. Comunque, quello che è rimasto è in mano all'impianto ideologico presente appunto in Russia come egemone. Cioè, no, il putinismo si è fatto. Lo utilizza come la spada, diciamo, il panslavismo, per esercitare appunto la propria egemonia politico-economica nella regione. Questo per dire che, non per dire purtroppo che siamo figli ucraini, ma no, assolutamente, ma per dire che non lo so, è quello che emerge, è quello che si vede oggi del panslavismo, insomma, che purtroppo sembra principalmente strumentalizzato in questa maniera. Sì, io posso dire, diciamo, da storico, la percezione che ho è che c'è sempre un'ambiguità tra questi due elementi, no? Da una parte c'è, come dire, un espansionismo, un'influenza che può essere anche deleteria, come c'era anche 100 anni fa. In realtà anche 100 anni fa il panslavismo era in qualche modo sfruttato dall'imperialismo zarista, che voleva appunto un posto nel Mediterraneo e quindi spingeva per l'indipendenza serba e montenegrina, ad esempio. Però dall'altra parte c'è un elemento di riconoscimento di un'identità comune, che è un dato di fatto. C'è anche soltanto la vicinanza linguistica, la vicinanza culturale comunque esiste, e quindi è un'ambiguità che è sempre presente in questi elementi di politica internazionale e geopolitica. Chiaro, beh sì, poi c'era anche un certo panslavismo anche nell'ex Jugoslavia, che appunto era forse un po' più laico, tendenzialmente, insomma, multietnico, e sicuramente aveva qualche elemento positivo in più rispetto a quello che rimane oggi, almeno, non so, spero che siete d'accordo. Io assolutamente, come... A proposito di panslavismo, scusate, devo assolutamente salutare i miei figli Giobatte e Paso che mi stanno ascoltando. Ciao. Ciao Giobatte e Paso, quando venite ad ascoltarci proprio nei nostri studi? Dai, sarebbe bello, però una trasmissione qua con i bambini sarebbe fantastico. Tra l'altro i bambini di Eric sono gli unici figli che regalano al proprio papà un disegno con la bandiera jugoslava. Io penso che siano gli unici, effettivamente. Io fossi, insomma, come dire, un papà, mi commuoverei, sì, mi commuove assai. E dunque chiudiamo il discorso sul panslavismo, non perché sia di poca importanza, ma perché dobbiamo andare a parlare di Gavrilo Princip, un personaggio assai controverso, su cui ho appunto delle domande da farti, Eric. Innanzitutto volevo, questo pezzo qua è molto molto carino, questo dei Srpski Rap, e appunto dedicato al personaggio di Gavrilo Princip. A me quello che è piaciuto particolarmente quando ti sento parlare di questo documentario è che mi sembra che le figure di Gavrilo Princip e di Francesco Ferdinando siano molto umane, molto umanizzate, ed è quello che ho apprezzato di più nel, appunto, quando ti ascolto parlare di questa storia, perché spesso la storia è fatta poi di numeri, di date, di avvenimenti storici che rimangono poi un po' aridi, un po' troppo meno contestualizzati. Allora, cosa ci racconti di Gavrilo Princip? Ma vogliamo sapere proprio come dire, i gossip su Gavrilo. Ma dunque sì, come dicevo, noi in realtà il nostro film è più orientato a occuparsi della memoria di questi personaggi più che della realtà storica. Della realtà storica però effettivamente a noi piace ricordare gli elementi più umani. Alla fine certo sono dei simboli oggi, no? Gavrilo Princip è più che Francesco Ferdinando, che come dicevo è un personaggio totalmente abbastanza sconosciuto, insomma, comunque poco significativo, però ci sono anche, appunto, c'è dietro anche un'umanità. E Gavrilo Princip era un ragazzo molto giovane, aveva 19 anni, era un ragazzo di campagna, perché veniva da un paesino, da Bosasco, un paesino vicino a Bosasco Gracovo, nella Bosnia più profonda, e si era diciamo il più colto dei fratelli, e era andato a studiare a Sarajevo, era entrato in contatto con gli ambienti appunto panslavi o comunque anti-asburgici, era stato più o meno costretto ad andare a Belgrado, che all'epoca che era una specie di Torino dei Balcani, come viene definita. Piemonte. Il Piemonte dei Balcani, sì, cioè il luogo dove si radunavano tutti gli irredentisti jugoslavi, quelli che volevano creare uno Stato jugoslavo, diciamo, sul modello del risorgimento italiano, quindi l'idea proprio di... Mazziniana. Esatto, e quindi la Giovane Bosnia, che è appunto l'associazione di cui lui faceva parte, che richiama ovviamente la Giovane Italia di Mazzini. Ci sono anche altri riferimenti, la società segreta invece serba, a cui faceva riferimento sempre Gavrilo Princip e i suoi amici, si chiamava Cernaruca, la mano nera, che fa riferimento alla carboneria, quindi la mano è nera perché è sporca di carbone. La rivista che veniva pubblicata dalla Cernaruca si chiamava Piemonte, proprio i riferimenti al risorgimento italiano sono molto evidenti. E loro si ispiravano proprio direttamente, esatto, al risorgimento italiano, andavano a studiarsi anche, non lo so, i testi. Sì, certamente. E loro, questi ragazzi, come dire, Gavrilo Princip e gli altri, sono molto simili in realtà ai nostri idealisti risorgimentali, che poi spesso fanno anche una brutta fine. Anche lì c'è, non so, un Cesare Battisti impiccato dagli austriaci, piuttosto che uno Slataper, cioè ci sono diversi personaggi anche nel nostro risorgimento che sono degli idealisti un po' fanatici, un po' pazzi visti oggi, no? Che però sono disposti a sacrificare la loro vita per un ideale che è sostanzialmente l'ideale unitario, di stato unitario, basato su un'idea nazionale che oggi ci sembra molto sorpassata per certi versi, ma che invece, certo, all'epoca era motivo, appunto, eri disposto a morire per quello e anche ad uccidere, come nel caso di Gavrilo Princip. Senti, ma io devo chiederti una cosa, perché ho l'impressione che alle elementari mi abbiano raccontato, e anche alle medie, una bugia. Ma tu mi confermi che Gavrilo Princip era anarchico? No, Gavrilo Princip non era anarchico, ma soprattutto era stemmio. Questa è la cosa che secondo me non ti hanno mai raccontato. No, perché ecco, tutte le volte che insomma mi viene in mente quello che ho studiato rispetto a questa vicenda, mi viene sempre, appunto, mi veniva sempre collocato il personaggio di Gavrilo Princip in quanto anarchico. Chissà per quale motivo, cioè cosa spinge. Ci hanno raccontato questa storia, ma lo raccontano tutti, non l'hanno raccontato solo a me. Probabilmente, nell'immaginario collettivo c'è Gaetano Bresci in Italia. Esatto. Che era anarchico, sì, che ha ucciso un monarca, e che quindi tutti quelli che hanno fatto la medesima cosa nel periodo storico, vabbè, Gavrilo, l'attentato di Sarajevo era una 15 anni più tardi. Sì, ma in realtà c'è, come dire, l'anarchismo in quell'epoca uccideva effettivamente molti regnanti, quindi era l'idea politica più, diciamo, che ispirava la maggior parte degli attentati terroristici contro, appunto, regnanti, presidenti, eccetera. Ce ne sono stati decine in quegli anni di attentati di questo tipo, quasi tutti commessi da anarchici, e quindi l'accostamento secondo me è proprio dovuto alla ignoranza, cioè un errore storico, però è comprensibile in quest'ottica qua, insomma, cioè, visto che la maggior parte sono anarchici, sarà stato anarchico anche lui, mentre invece lui ma anche tutti quelli della Giovane Bosnia non erano per niente anarchici, erano magari vicini a idee sovversive generiche, sì, un po' anarchiche, un po' socialiste, ma in realtà principalmente erano dei nazionalisti, diciamo, loro sognavano una Jugoslavia unita, nazionalisti però in un senso che oggi ci fa sorridere, perché nel senso di nazionalismo jugoslavo, quindi superiore a quello serbo, croato, sloveno, un nazionalismo unificante, più grande, sì. Ma quindi può darsi che, diciamo, ideologicamente fossero stati eterogenei, cioè si può supporre questo? Sì, che sì, potevano essere simpatie socialiste, certo, repubblicane, certo, esatto, piuttosto che... Sì, assolutamente sì. Gavrilo Princip nello specifico sembra, nel suo piccolo gruppo, diciamo, quello meno propenso a idee particolarmente originali. C'era un altro dei suoi compagni di viaggio, hanno viaggiato in tre da Belgrado a Sarajevo. Nedelko era il secondo viaggiatore, era più vicino alle idee, ai socialiste, diciamo. Il terzo, Grabes, era figlio di un pope, quindi era più vicino, però paradossalmente lui durante il processo si dichiara ateo, dice: ma come, sei figlio di un pope? E lo stesso Gavrilo Princip anche si dichiara ateo, anche questo è interessante perché all'epoca appunto non c'era una correlazione tra il nazionalismo e le religioni, come è molto forte invece oggi nei Balcani, proprio perché il nazionalismo si riferiva a uno stato sovranazionale rispetto a queste micronazionalità, e che quindi non aveva un'unica religione, al contrario, anzi, infatti loro proprio dicono al processo: noi siamo atei perché le religioni da noi dividono i popoli e quindi non potremmo professare nessuna religione perché dividono i popoli jugoslavi che invece sono, vanno uniti. Grande, grande Gavrilo, grande Nedeljko, grande Grabež. Volevo dire una cosa che mi sono dimenticata. Chissà cosa volevo dire. Vabbè, allora, siccome me la sono dimenticata, andiamo ad ascoltare, infatti, il prossimo brano. Così ti rinfreschi la memoria mentre sentiamo Sarajevo degli EKV, Katarina Velika, un brano del... Non è EKV? No. Mi sono sbagliato? No, dice Eric che ha fatto la scaletta. Culture Shock, Culture Shock, un grande gruppo perché... punk nordamericano. Sarajevo. Šaršija, u neki zeljanica, grbavica željo, mama moja, Šaršija. Osma da kjenja, ne kjenja, da ne zvate. Opština, centar, ja rodio se jednom, ženio se dva puta. Nije bio kakav brak, ali tenek bio brak. Legenda, pozorište, čobanija, familija moja, Šaršija, Sarajevo, Sarajevo, erano i Culture Shock con Sarajevo, un gruppo davvero notevole, un gruppo statunitense, però ovviamente con origini balcaniche. Sono formati appunto da due bosniaci, un bulgaro, un giapponese e due americani. Sì, il gruppo è fondato, penso, dal cantante che viene da Sarajevo. Sì, molto energici, fanno questo, come lo definiscono oggi, gypsy punk, molto, molto tirato, molto incazzoso. Bene, torniamo allora al nostro viaggio con Eric. Appunto, siamo partiti da Vienna attraverso Trieste, Metkovici, Mostar. Ti stavo appunto chiedendo anche del tuo compagno. Lui ha fatto forse un viaggio un po' meno agevole, doveva viaggiare più nelle campagne, nelle province. Cioè, Gavrilo parte da? Parte da Belgrado, poi fa Šabac, Loznica, Tuzla, Sarajevo. Quindi le città minori, doveva attraversare il fiume, insomma, cioè, c'è un po' più, sì, sì, sì, beh, più periglioso, diciamo. Originariamente, tra l'altro, Gavrilo ha attraversato la Drina su una barca di notte, tutto un viaggio. Giustamente, da clandestino. Da clandestino, ovviamente avevano delle armi con loro, le pistole, le bombe. Però è interessante, per esempio, lo racconto sempre, che uno dei tre, proprio Nedelko, in realtà aveva attraversato il confine con la carta, con la tessera studentesca di un altro, nemmeno la sua. Un confine comunque tra due paesi che erano già più o meno in guerra fredda, nel senso erano in rotta da molti anni tra Serbia e Impero Austro-Ungarico. Quindi curioso come fosse relativamente facile entrare nell'Impero Austro-Ungarico, appunto, da un paese quasi nemico 100 anni fa rispetto alla difficoltà di oggi nell'entrare nell'Unione Europea. No, infatti non c'erano tutti i dispositivi di controllo tecnologici che abbiamo oggi. Esatto. O forse l'Impero Austro-Ungarico in quel periodo era troppo liberale, non lo so. Comunque, quindi le persone che lui ha incontrato, cioè, per lo più il viaggio si svolge in Serbia, quindi sarà emerso più un punto di vista serbo sulla figura di Gavrilo, sì, Princip. Adesso sì, non sì, so sì, chi sono le persone che ha incontrato. Ma lui, di nuovo, più o meno come me, ha intervistato sia storici sia invece persone incontrate banalmente per la strada, insomma, nei bar o questo o infatti proprio in è interessante. Sì, effettivamente ha il suo viaggio, diciamo, dal punto di vista dell'immaginario del personaggio, è stato molto sicuramente più interessante del mio, nel senso che Gavrilo Princip, appunto, al contrario di Francesco Ferdinando, è un personaggio invece molto conosciuto nei Balcani e che ha avuto tutta una sua costruzione simbolica, diciamo. È stato prima appunto l'eroe della fondazione della Jugoslavia, poi è diventato l'eroe, un eroe quasi proto-socialista, considerato comunque molto vicino al socialismo negli anni del socialismo, e oggi in realtà viene visto come un eroe esclusivamente serbo, per cui mentre come dire, celebrazioni ufficiali a Sarajevo l'hanno comunque presentato come un terrorista, ci sono state tutta una serie di celebrazioni di tipo nazionalista serbo, sia in Serbia ma molto di più in realtà nella Repubblica Serba di Bosnia. E a questo proposito mi calza a pennello appunto una provocazione, una domanda, no, di un ascoltatore, di Claudio, che dice: Eric dimentica di dire che Princip oggi è usato da Kusturica come eroe della serbitudine ultranazionalista. L'anniversario è stato celebrato come momento eroico per la patria serba contro l'Occidente ad Andrićgrad. Beh, ci stavamo infatti sì, arrivando. Infatti non lo dimenticavo, ma lo aspettavo di dirlo. Grazie Carlo comunque per avercelo ricordato. Sì, sì, infatti anche il nostro Gavrilo, cioè Simone Malavolti, è stato a Andrićgrad. In realtà è stato pochi giorni prima, perché ovviamente il 28 giugno eravamo tutti e due a Sarajevo, però ha assistito a tutte le celebrazioni che stavano per essere fatte, quindi c'è un grosso mosaico. Una cosa che avrà notato anche lui, c'è questo grosso mosaico divertente, perché i protagonisti di questo mosaico sono da una parte la giovane Bosnia, quindi c'è Gavrilo Princip con tutti gli altri 6 o 7, non ricordo quanti sono raffigurati lì, che erano presenti a Sarajevo durante l'attentato, e dall'altra parte nel palazzo di fronte c'è un altro mosaico in cui c'è il presidente l'attuale presidente della Repubblica Serba di Bosnia e Kusturica, in tutte e due insieme, che sono un po' appunto il simbolo invece sarebbero l'equivalente della giovane Bosnia oggi dal punto di vista di chi ha realizzato questi mosaici. Quindi proprio la sensazione che Gavrilo venga un po' utilizzato oggi politicamente come il mito appunto della servitudine, del nazionalismo serbo, quando appunto, ripeto, lui si dichiarava, la prima dichiarazione che è stata fatta, che ha fatto quando è stato arrestato, è stata: io sono un nazionalista jugoslavo, quindi è evidente. E del gruppo della Giovane Bosnia facevano parte anche croati, musulmani. Uno dei 7 attentatori lungo il tragitto era un musulmano, che poi tra l'altro è l'unico che non viene arrestato e riesce a si rifugia in Montenegro. Ma senza mettere in dubbio l'autenticità appunto di questi militanti, di questi giovani idealisti che lottavano per questa causa jugoslava, quanta, diciamo, volontà egemonica poteva esserci invece nel gruppo ristretto dirigente della Mano Nera per quanto riguarda appunto identità serba? Cioè ci poteva essere all'interno del progetto jugoslavo un elemento di volontà egemone serba che... Sì, io sono convinto, sì, diciamo dal punto di vista della ricerca storica questo sicuramente è plausibile, ma come sempre ci sono tanti poteri interessati alle cose. Adesso nel caso dello Stato serbo dell'epoca c'era la Mano Nera, ma c'era anche la corona, cioè per esempio il re serbo non aveva gli stessi interessi identici che avevano questi della Mano Nera, così come esisteva anche un interesse, appunto, dicevamo prima, della Russia, ad esempio, in senso imperialista. C'erano tanti interessi che si incrociavano. Ad esempio, pare evidente che il re, la corona serba, il re serbo non avesse nessun interesse a fare la guerra, non volesse fare la guerra in quel momento. La Serbia era appena uscita dalle guerre balcaniche, dove aveva raddoppiato il territorio, quindi era stato già un grandissimo successo militare, però era stremata da queste guerre e non aveva intenzione di entrare di nuovo in guerra, peraltro contro un colosso come l'impero austro-ungarico, che sicuramente avrebbe battuta, come realmente è accaduto nei primi mesi della guerra. La Serbia è stata occupata dagli austriaci e ha vissuto praticamente per tutta la prima guerra mondiale sotto occupazione. Come dargli torto, infatti, considerando l'esito che poi ci sarebbe stato dopo la prima guerra mondiale, in cui fu dimezzata la popolazione maschile della Serbia. Infatti, no, è stata una vera tragedia per il popolo serbo in realtà quella guerra, però c'erano invece sicuramente queste forze segrete, diciamo queste società segrete eccetera, che operavano in maniera più estremista e sicuramente in un'ottica anche serbocentrica. Però sicuramente con la Mano Nera aveva un obiettivo jugoslavo, poi jugoslavo magari in un senso serbocentrico, cioè in cui i serbi dominano, ha un ruolo di guida, diciamo. Sì, che poi in realtà è quello che di fatto si è realizzato dopo la prima guerra mondiale. La prima Jugoslavia non era certamente la Jugoslavia di Tito, era una Jugoslavia in cui i serbi avevano il controllo politico del potere, sostanzialmente. Chiaro. Ma se volevi aggiungere qualcosa, Vale? No, io volevo ascoltare un pezzo che ci riporta a Sarajevo. Vai. Uno dei pezzi, diciamo, principe, no, di Sarajevo, un pezzo di Kemal Monteno che ahimè ci ha lasciato da qualche giorno. Questa è Sarajevo, Ljubavi moja, Sarajevo, amore mio. Zajedno smo rasli, grade ja i ti, isto plavo nebo poklonilo nam stih. Iz potrebe vića sanjali smo sne, ko će brže rasti, ko će ljepši biti. Ti si bio velik, a rodio se ja, Sigmana uz osmijeh, slao si mi san. Dječak koji raste, zavolio te tad, ostao je ovdje, vezan za svoj grad. Bilo je da krenem, o tebi sanjam, putevi me svi tebi vole. Čekam s nekom čežnjom, na svjetla tvoja, Sarajevo, ljubavi moja. Pjesme svoje imaš, i ja ih pjevam, želim da ti kažem šta sanjam. Radosti su moje, Sarajevo, ljubavi moja. Kada prođu zime i dođu lijepi maj, djevojke su ljepše, ljubav im daj. Šetalište tamno uz desima zri, neke oči plave, neke riječi nježne. Sad je dječak čovjek, a zima pokri brijeg. Park i kosa bijeli, ali otići će snijeg. Proljeće i mladost ispunit će tad, Sarajevo moje, jedini moj grad. Bilo gdje da krenem, o tebi sanjam, putevi me svi tebi vode. Čekam s nekom čežnjom na svijetla tvoja, Sarajevo ljubavi moja. Pjesme svoje imaš i ja ih pjevam, želim da ti kažem šta sanjam. Radosti su moje i sreća tvoja, Sarajevo ljubavi moja, Sarajevo ljubavi moja. On air, esatto. On airissimo. E questa era Kemal Monteno con Sarajevo Ljubavi Moja. Kemal Monteno che ci ha lasciato proprio questo gennaio a Zagabria. Sì, beh. Non facciamo un minuto di silenzio. No, andiamo avanti. Un po' troppo, dai, va bene. Va bene. Mi piace, ma questo genere un po' Schlager lo chiamano in Germania. Un po' da Schlager nel senso pannoso. No, vabbè, lasciamo perdere. Torniamo cosa invece. Cosa vuol dire Schlager? No, non lasciamo perdere. È un perdere. Genere musicale così, molto tranquillo, da locale serale dove si esce in coppie. Secondo me deriva da panna. Degli anni, tipo da una roba un po' sdolcinata. Negli anni 40. Comunque 40 va molto 50. Di moda anche in Austria, questa roba. Vi dico, sì. Io ho visto tantissimi manifesti di gruppi jugoslavi di questo genere che suonano a Vienna. Esatto, si chiama Schlager. Come genere, non so tradurlo, ma ecco, vale, sta andando a vedere, però ci perdiamo un po'. No, ma andiamo pure avanti. Io volevo sapere da Eric, mentre appunto la nostra regia controllerà l'etimologia della parola Schlager, quali sono insomma i modi di supportare, no, Sarajevo Rewind, perché Sarajevo Rewind è un progetto indipendente, giusto? Sì, questo non l'abbiamo detto, ma appunto quando facevo riferimento alla pazzia che ci ha animato per fare questo film, è proprio questo il discorso. Noi abbiamo fatto questo film in maniera totalmente autoprodotta, autofinanziata, e abbiamo avuto anche la disavventura del furto, come raccontavo prima. Peraltro ci hanno rubato, oltre alle riprese del film, anche materiale proprio di lavorazione, quindi videocamere, hard disk eccetera, un computer, quindi è stato insomma abbastanza un colpo durissimo, un colpo duro, per la produzione insomma. Sì. Avete esatto. Fatto degli appelli per farvi restituire almeno le riprese di quei ladri. Immagino non si possono fare niente. Sì, abbiamo provato in realtà quel giorno a Sarajevo in tutti i modi, ma non siamo riusciti a rintracciare nulla, per cui purtroppo è andato tutto perso. Però appunto diciamo che dopo questa disavventura abbiamo, dopo il tentativo di suicidio ovviamente che mi ha no, insomma, parte gli scherzi, però insomma sono stato abbastanza colpito da questa cosa. Poi no, abbiamo pensato invece di fare un piccolo crowdfunding, cioè un autofinanziamento su internet, che stiamo portando avanti proprio in questi giorni. Siamo nel pieno della campagna e devo dire che sta andando bene. Stiamo chiedendo 5.000 euro, quindi una cifra in realtà bassa rispetto ovviamente alle spese che abbiamo avuto, che purtroppo avremo ancora, però è già una cifra consistente, e devo dire siamo molto contenti perché la risposta dei nostri amici, dei nostri sostenitori è grandissima, per cui abbiamo raggiunto già quasi 3.500 euro su 5.000. abbiamo ancora 2 settimane, quindi direi che insomma siamo a buon punto. Naturalmente bisogna ancora diffondere il più possibile la notizia e fare in modo che qualcuno ha voglia di investire un po' nel nostro film, lo faccia. Bene, allora, facciamo l'appello, infatti, ecco, come subito. Si può fare per sostenervi? Qual è insomma un indirizzo di riferimento e quali sono gli appuntamenti dedicati al crowdfunding? Appuntamenti, un conto, insomma un PayPal, insomma se qualcuno vuole versare qualche euro per questo progetto. Esatto, allora in realtà appunto il pagamento effettivamente si fa tramite PayPal sulla piattaforma che si chiama Produzioni dal Basso, dove è facile trovare il nostro progetto, che appunto si chiama Sarajevo Rewind 2014-1914. E se no, ovviamente ci si potete contattare sulla pagina Facebook di Sarajevo Rewind. Abbiamo anche un nostro blog su WordPress e una mail che è sarajevorewind@gmail.com. E niente, insomma, quindi ci sono varie modalità. In questi giorni stiamo facendo degli incontri, delle serate di autofinanziamento. E ne abbiamo fatta una a Firenze, un'altra in provincia di Reggio Emilia, ne faremo un'altra a Torino nei prossimi giorni. Quindi agli ascoltatori torinesi possiamo dire di trovarci, insomma, il domenica prossima, esattamente tra una settimana, il 1° marzo, al locale che si chiama Sarajevo. Forse alcuni degli ascoltatori già lo conoscono, in via Boucheron 10, zona Porta Susa, penso dalle 7:30 grosso modo. È una cena di autofinanziamento, una cena buffet con vari prodotti tipici di Sarajevo e dei Balcani, quindi cevapcici, pite, eccetera. E poi ci sarà una presentazione del progetto con musica, immagini, fotografie, letture, e gran finale con il teaser, cioè la presentazione del montaggio video che abbiamo fatto per presentare il nostro film, che dura 4 minuti e mezzo. In realtà è una sorta di trailer del film, e ci sarà appunto l'occasione di finanziarci sia con la cena sia con l'acquisto di gadget che abbiamo preparato per l'occasione. E in particolare cosa avete fatto? Magliette, spillette? No, abbiamo fatto dei quadernetti con il nostro logo, fatto da un nostro amico grafico molto molto bello, e lo trovate anche sulla pagina Facebook, potete trovare le foto. E poi abbiamo fatto soprattutto le birre del Sarajevsko Pivo in Special Edition Sarajevo Rewind, con la nostra etichetta, che sono buonissime, straordinarie, e sono da collezionare. Bene, quindi tutte queste cose le potrete trovare il prossimo 1° marzo. Abbiamo detto, che giorno è? È domenica sera. Domenica 1° marzo, dalle 7:30 in poi, presso Cafana Sarajevo. Sarajevo City Food, un posto Sarajevo in cui comunque, insomma, noi lo confermiamo, si mangia molto bene. Noi ci saremo sicuramente, anzi lo ricorderemo ai nostri radioascoltatori, perché sarà una serata davvero davvero interessante. Ci saranno anche le birre limited edition. Esatto, sì. Birre, con l'etichetta fantastica. Sì, adesso mi viene in mente, ci avevi fatto vedere il bozzetto con tipo la carta. Bravissimo, esatto, la carta da gioco. Da un lato Gavrilo, dall'altro dall'altro Franz Ferdinand. Esatto, no. Bello, bello, proprio mi quelle. Piace, graficamente molto ben fatto. Benissimo, adesso è il momento radio richiesta, disco richiesta. Insomma, torniamo fra qualche minuto a parlare di Sarajevo Rewind e di Sarajevo in particolare. Questa canzone è stata richiesta da Ivan Brajkovic, quindi la dedichiamo a te, caro Ivan. Loro sono i Dubiosa Collective con Prvi Mai. Sindikalni prvomajski uranak, proleteri kao jedan šure do cilja. Nozdrve golica, miris roštilja. U potoku hladi se par gajbi piva, iz flaša se nateže rakija šljiva. Radničke parole danas nema koda nosa i neće se pjevat Bandjera Rosa. Niko ne priziva suzavac pendrek, zašto politikom pariti derne tekila sunrise. Mjesto molotova, ukolo se varta i kordon rotova. Digla se čitava bivša juga, nećemo nikome biti sluga. Neustrašivo derneći drugu struga, hladom se mezi i složo se cuga. Naski nam po rakiju i nazdravi za kraj. Tehnološki višak danas slavi 1. maj. Ovdje se rastajemo s Bogom goodbye. Mi idemo u stečaj, sretan 1. maj. Danas nije olimpijada, danas nije ni gej parada. Garant nije šiburijada, danas je praznik dan, da, da. Danas nije olimpijada, danas nije ni gej parada. Garant nije šiburijada, danas je praznik dan, da, da. It's not a problem, yeah. se ori, pjesma što slavi neradni dan. Sudzobrane za potok žubori, zašto da kvarimo savršen plan? Nikog ne zanima ni klasna borba, krčka u kazanu, begova čorba. Kakva revolucija i pariška komuna, evo deset će vapa u pola somuna. Kad ugase roštilje i utihnu pjevajke, slivade nestanu čebadi, ležajke. Kući ćeš umoran leći u krevet, sanjat ćeš zaslužen radnički dženet. Prije ti snova sebi obećaj, samo levati idu u stečaj. Biro je početak, a penzija kraj, radnička klasa odlazi u raj. Naspi nam po rakiju i nazdravi za kraj. Tehnološki višak danas slavi prvi maj. Ovdje se rastajemo s Bogom, goodbye. Mi idemo u stečaj, sretan prvi maj. Danas nije olimpijada, danas nije ni gej parada, garant nije čiburijada, danas je praznik dan rada. Danas nije olimpijada, danas nije ni gej parada, garant nije čiburijada, danas je praznik dan rada. Danas nije olimpijada, danas nije ni gej parada, garant nije čiburijada, danas je praznik dan. Questo era Provi Mai dei Dubbiosa Collective. Continuiamo con il momento disco richiesta. Andiamo sempre ad ascoltare un altro gruppo dei Dubbiosa Collective, che ricordiamo un altro essere... brano, vuoi dire? Sì, grazie. Ti ringrazio moltissimo. Ricordiamo essere un gruppo appunto sarajevese, quindi assolutamente in linea con il tema della giornata. Lo dedichiamo a Jacopo, che è tra l'altro un collaboratore di My Radio. Lo dedichiamo a Jacopo. Loro sono appunto sempre Dubbiosa Collective con firma illegale. Program Vlade stane na strancu formata A4. Program jeste ambiciozan, ali on je veoma realan i izvodljiv. Da li vjerujete federalnom vladu? Ne vjerujem. Šareni marketinški zidovi srama, prazna obećanja su najbolja reklama. Na stolu komad ljeba, u slovima salama, sve u ime naroda, čist profit i zarada. Kažite nam ministri, naši poslanici, zašto ratni invalidi žive kojadnici. Na ivici života, vama bitna sota, poznajete losjećaj, zove se sramota. Što smo bili, od sami sebe dugo se krili. Dolazi dan da kažeš ne, ne, nema šta izgubit, već smo izgubili sve. Sva ova demokratija, samo birokratija, zajednički tal, firma ilegal. Prazne retorike, bez razuma i logike, sve ide egal, firma ilegal. Kao da sudnji dan je blizu, redovi zločinaca u nizu. I dok ti samo gubiš vrijeme, njima glas ti daješ, oni uzimaju sve. Nova demokratija, samo birokratija, zajednički tal, firma ilegal. Prazne retorike, bez razuma i logike, sve im je egal, firma ilegal. Firma ilegal. Firma ilegal. Firma ilegal. Prazna obećanja su najbolja reklama. Na stolu komad ljeba, u slovima salama, sve u ime naroda, čist profit i zarada. Kažite nam ministri, naši poslanici, zašto ratni invalidi žive kojadnici. Na ivici života, vama bitna sota, poznajete losjećaj, zove se sramota. Šareni marketinški zidovi srama, prazna obećanja su najbolja reklama. Na stolu komad ljeba, u slovima salama, sve u ime naroda, čist profit i zarada. Kažite nam ministri, naši poslanici, zašto ratni invalidi slojevi, vladi stojevi. Mijenjaju stolice, zobrade guzice, nama po glavama sjevaju palice. Nemamo vize da pređemo granice. Šareni marketinški zidovi srama, prazna obećanja su najbolja reklama. Na stolu komad neba, u stolima salama, sve u ime naroda, profit i zarada. Kažite nam ministri i naši poslanici, zašto radi ima vidi žive kojatnici. Na ivici života, vama bitna svota, poznajete osjećaj, zove se sramota. Samota. Firma Illegal, Dubbiosa Collective, gruppo sarajevese che abbiamo ascoltato tutti almeno una volta in concerto. Appunto, Eric l'ha ascoltato a Tuzla, io a Torino ben due volte, una volta all'Hiroshima e una volta al Gabrio. Beh, sono uno dei gruppi alternativi, forse l'unico gruppo alternativo bosniaco famoso a livello internazionale, appunto, che suona nei vari festival europei. Ha suonato appunto anche, l'abbiamo ricordato, a Torino, al Gabrio un paio d'anni fa, o forse tre. E, bene, bene, quindi è il momento delle richieste musicali. Abbiamo già anche delle domande. Sì, dai, dopo due brani possiamo ancora tornare sull'argomento di questa puntata. Parlavamo appunto della figura di Gavrilo, come viene percepita. Abbiamo detto che in Serbia appunto è percepito come eroe, non più jugoslavo, non più appunto irredentista jugoslavo, ma serbo, quindi è stato, diciamo, utilizzato, strumentalizzato dal nazionalismo serbo negli ultimi vent'anni in particolare. Invece i bosniaci lo ripudiano, abbiamo detto prima, no? Avevi accennato al fatto che durante le celebrazioni la stampa lo chiamava chiaramente come appartenente a un gruppo terroristico, no? Chi è, diciamo, l'eroe nazionale della Bosnia, della federazione bosniaca contemporanea? Cioè, loro, è Bruce Lee, secondo me è Bruce Lee. Hanno tentato questa strada e non era male, tutto sommato. Cioè, sì, beh, Bruce Lee potrebbe essere una soluzione. No, in realtà manca un po', effettivamente. Era interessante alle celebrazioni appunto del centenario dell'attentato a Sarajevo, come appunto nella parte est della città, che poi in realtà non è a est, ma insomma comunque quella che viene chiamata est, sì. No, Sarajevo, che è la parte serba, che guarda verso la Serbia, quindi a est, esatto, pur non essendo a est, però lì hanno inaugurato una statua a Gavrilo Princip. Vabbè, ovviamente, mentre invece dall'altra parte, nel luogo proprio dell'attentato, c'era una specie di rievocazione storica austro-ungarico nostalgica, in cui c'erano questi associazione di nostalgici degli Asburgo con i simboli di asburgici, i colori giallo-neri degli Asburgo, che hanno tenuto una specie di comizio dicendo che l'impero asburgico era il paradiso in terra praticamente, e comunque nell'indifferenza generale, in realtà, perché c'erano i mass media internazionali, c'erano i turisti, ma in realtà i bosniaci se ne sono fregati altamente. L'altra celebrazione grossa era il concerto della Filarmonica di Vienna dentro la biblioteca, che la biblioteca di Sarajevo, famosissima, che cent'anni fa era il comune della città ed era l'ultimo luogo, diciamo, visitato da Francesco Ferdinando prima di essere ucciso. Lui praticamente usciva da lì quando appunto è salito in macchina, ha fatto 200 metri ed è stato sparato da Gavrilo Princip. E quindi dentro la biblioteca c'era questo concerto della filarmonica, ma anche in questo caso, insomma, avere i biglietti per stare dentro erano pochissime persone. Immagino. E fuori c'era un po' di folla, ma anche lì prevalentemente persone venute apposta per l'occasione. Sostanzialmente i sarajevesi hanno ignorato le celebrazioni sia di una parte sia dell'altra. Se ne sono lavati le mani, era più semplice. No, per cui appunto dicevi l'attentato è avvenuto proprio di fronte alla biblioteca? No, non proprio di fronte, diciamo appunto 200-300 metri più in là lungo il fiume, sul lungo fiume. Ok, lungo la Miljatka. Esatto. Benissimo. Ma un giorno mi raccontavi, insomma, che la fortuna dell'attentatore è stata quella di aver sbagliato strada. Sì. C'è qualcosa di vero in questa cosa che mi hai raccontato? Non è Gavrilo che ha sbagliato strada, bensì l'autista di Francesco Ferdinando che ha sbagliato strada. E questo fatto curioso, ma ormai è accertato anche questo dalla storiografia, per cui il corteo di macchine, diciamo, avrebbe dovuto proseguire dritto lungo il fiume, mentre invece per errore si erano dimenticati di avvisare del cambiamento di programma gli autisti, e quindi le prime due macchine hanno svoltato a destra, proprio sull'angolo dove poi è avvenuto l'attentato, tra l'altro nella via che si chiamava Francesco Giuseppe all'epoca. Fantastico. E quindi anche la macchina di Francesco Ferdinando ha svoltato a destra, ma il generale che accompagnava Francesco Ferdinando e la moglie si è accorto dell'errore, ha fermato la macchina, proprio ordinando all'autista: no, fermo, devi andare dritto, non gelare di qua. Ma a quel punto la macchina si è fermata proprio davanti a Gavrilo Princip. E a quel punto, che strana coincidenza questa, veramente. Lo so, tu sei un complottista come molti lo sono stati. Effettivamente le coincidenze sono tantissime, perché un altro elemento che a me ha incuriosito molto è che Gavrilo Princip non era per niente un gran tiratore. Aveva imparato a sparare pochissimi giorni prima a Belgrado, in un parco di Belgrado. Ci raccontavi che si esercitava. Sparando contro gli alberi anche durante il tragitto, durante il viaggio, proprio perché non era sicuro della sua capacità di maneggiare una pistola. Non aveva fatto il militare, non aveva esperienze di tiro. Insomma, una cosa che assomiglia all'omicidio di Kennedy. Tipo. Esatto. Quindi diciamo il cecchino sul tetto ci starebbe, anche in questo caso. Beh, non lo so, comunque Francesco Ferdinando faceva parte di una corrente un po' riformista dell'impero, no? Che non era magari ben vista da l'altra parte, quella più militare, più conservatrice. Sì, diciamo riformista per certi versi, per altro liberale, non so come dire. Sì, in realtà ecco, no, liberale proprio no, cioè nel senso che lui era un conservatore anche molto religioso, quindi molto legato alla Chiesa Cattolica, eccetera. Però era riformista in un altro senso, nel senso nazionale, cioè che era poi il principale problema dell'impero austro-ungarico, che aveva questi problemi legati alle tensioni relative alle singole nazionalità che volevano avere l'indipendenza dall'impero, e su questo punto lui era un riformatore vero, ma in realtà lui stava antipatico praticamente a tutti gli altri poteri forti presenti nell'Austro-Ungheria per un motivo o per l'altro, sia umanamente, che era veramente una persona odiosa, questo lo dicono tutte le testimonianze, e sia perché era contrario a Francesco Giuseppe, che invece era il grande fautore dell'impero diciamo austro-ungarico, quindi con il potere diviso diciamo tra austriaci e ungheresi, e questo a Francesco Ferdinando non andava per niente giù, perché odiava gli ungheresi e pensava di favorire piuttosto gli slavi piuttosto che gli ungheresi. E non piaceva ai militari, proprio perché lui, pur essendo il capo dell'esercito ufficialmente quando è stato ucciso, era un pacifista, nel senso tra virgolette ovviamente, nel senso che lui era convinto che bisognasse difendere la pace europea a tutti i costi, perché era convinto che l'impero austro-ungarico non sarebbe sopravvissuto a una guerra, nel caso di una guerra si sarebbe distrutto, sfaldato, proprio perché i singoli nazionalismi all'interno dell'impero avrebbero fatto una rivolta, una rivoluzione, diciamo. Questa era la sua percezione, che non si è rivelata esattamente vera, ma è sicuramente stato vero che la guerra ha distrutto l'impero. Sì, infatti. Interessante questa cosa, vero? Assolutamente. Andiamo al prossimo brano di disco richiesta. Loro sono i Rock Partisani con Hugo, un pezzo davvero. Questo appunto. Io lo dedico anche ai miei figli, che piace tantissimo. È fantastico, sicuramente saranno a casa a ballarsela. Questo è dedicato a Massimo. Ok, no, dico il pezzo, Hugo si riferisce all'automobile? No, riferisce proprio allo stato, stato jugoslavo, esatto. Allora, Rock Partisani, Hugo. Yeah. gradi mene jednak diju. Kod otrok sriće, bratstva jedinstva, sve mu jugi se rodiju. Dobio toni sam kolo, rdićo rutkoj kapico. Bili smo pismi o našem vodi, sve bilo nam je lepo. Bila je neka tajna veza, ki je družila se nas. Duslovano, kripartizano, im računajte na nas. Od Vardara pa do Triglava, plesala je Raja Titova. Hej, od Čerdapa pa do Jadrana, žurala je moja generacija. Ljubljana, Zagreb, Beograd. Me čorva, lepi sol, valjak, jugo, rock'n'roll. Kao se Niki, čola im brega, fosili mi žole pa brela. Ela krašin za sava, partizan zvezda Olimpija. Eva Sardine, trina bez filtra, Kavrilović i Dradanska. Bila je neka tajna veza, družila se nas. Duslovano, kripartizano, im računajte na nas. Od Vardara pa do Triglava, plesala je Raja Titova. Hej, od Čerdapa pa do Jadrana, žurala je moja generacija. Od Vardara pa do Triglava, plesala je Raja Titova. Hej, od Čerdapa je moja generacija. Ljubljana, Zagreb, Beograd. Fudbal, muzika, rakija, čeba. Čajić, Kićo i Križaj, paket, aranžban, novi val. Ljubim i Čirsi, Mirko i Zalko, Zagor, Vučko, Baltazar. Otpisani su Tjecka, marš na Drino, Neretva. Vater nas brani, nejoči Peter, dobla je Jugoslavija. Bila je neka tajna veza, ki je družila vse nas. Duslovano, kripartizano, in računajte na nas. Od Vardara pa do Triglava, plesala je Raja Titova. Hej, od Čerdapa pa do Jadrana, žurala je moja generacija. Od Vardara pa do Triglava, plesala je Raja Titova. Hej, od Čerdapa pa do Jadrana, žurala je moja generacija. Žurala je cela Jugoslavija. Questi erano i Rock Partisani, con un assolo di Eric in sottofondo. L'abbiamo dedicata a Paso Giubatta e a Massimo, che appunto ha fatto la disco richiesta. Purtroppo oggi non riusciremo a soddisfare tutte le richieste dei nostri radioascoltatori, che ci hanno fatto un sacco di richieste, ma le mettiamo in scaletta poi per le puntate seguenti. Bene, siamo arrivati quasi alla fine, manca ancora pochi minuti. Pare, quindi ricordiamo un po' gli appuntamenti per l'autofinanziamento, per il crowdfunding del documentario Sarajevo Rewind, che appunto quali sono, Eric, se vuoi ricordarceli. Abbiamo detto il 1 marzo, esatto, domenica prossima alle 7:30, dalle 7:30 in poi al Sarajevo, via Boucheron 10, c'è la cena di autofinanziamento, 10 euro, dai, si può fare. Poi insomma, se... direi poi si mangia bene, noi lo confermiamo tutti quanti, quindi insomma venite insieme a noi, lo ricorderemo ancora magari tramite i nostri, sì, sulla pagina Facebook sicuramente. Poi altri appuntamenti, presentazioni, ribadisco anche... adesso nell'immediato no, c'è solo questa occasione in cui appunto ci sarà però anche la presentazione del trailer e altre, insomma, letture, musica, immagini, cose varie, spettacoli di arte varia. E poi no, ribadisco la pagina per il crowdfunding, che è produzionidalbasso.com, se non ricordo male, e la nostra pagina Facebook Sarajevo Rewind 2014-1914, insomma, per contattarci. Tra l'altro la cena, ricordo che insomma bisognerebbe prenotare prima per sapere quanti siamo, quindi insomma fatevi sentire un paio di giorni prima, così abbiamo la certezza. Ma di recentemente no, hai fatto un po' di conferenze in giro in occasione del giorno della memoria, no? Non so, hai avuto modo di accennare, magari andando un po' off topic, a questo documentario durante uno degli incontri a cui hai partecipato, ma per capire quali sono quali reazioni suscita, quali sono le aspettative. Così. Ma no, devo dire, durante le conferenze del giorno del ricordo non ne ho parlato, però gli incontri pubblici, diciamo, che abbiamo fatto proprio su questo tema sono stati, diciamo, siamo stati veramente accolti molto calorosamente dalle persone anche che non ci conoscevano, comunque ci conoscevano magari di sfuggita. Sembra che sia piaciuto molto. Adesso, per esempio, 2 settimane fa abbiamo fatto un incontro al Circolo Sud qui a Torino, e devo dire c'era un pubblico vario, e è piaciuto moltissimo il filmato e insomma l'idea. Sembrava è un piacere anche, devo dire, sentire che c'è un riconoscimento, diciamo, delle persone intorno a noi rispetto al lavoro che faticosamente stiamo portando avanti da ormai da un anno e mezzo, quasi 2 anni. Anche rispetto al crowdfunding, devo dire, è un'esperienza, magari inizialmente poteva sembrarci un po' imbarazzante chiedere soldi per un lavoro che stiamo facendo, ma invece no, adesso ormai è una pratica talmente diffusa, ci sono interi film proprio di fiction che vengono prodotti in questa maniera. Si è partiti dai cosiddetti fan movies, dove appunto c'è un gruppo di fan più o meno esperti, più o meno del settore, che riescono a tirare su delle produzioni medie in questo modo qua, con crowdfunding, con qualche sponsor. Sì, no, ma poi devo dire, mi piace molto la sensazione di stare facendo un film in qualche modo con tante persone, no? Circondato dall'aiuto aiuto in realtà di tutti i tipi, perché poi appunto c'è il nostro amico che ha curato la grafica, il nostro amico che cura la campagna di crowdfunding, un altro amico che cura altri aspetti, persone Balkan Rock sono... che ti sostiene, Balkan Rock che ci ospita e ci sostiene, io che ti do i testi di Andrić. Quindi c'è questo aspetto collettivista, esatto, che ci piace tanto, l'autogestione proprio jugoslava, mettiamo in pratica l'autogestione. A proposito di questo, non ha messo in pratica, ci saranno anche le torte autoprodotte apposta per l'occasione domenica prossima, ci sarà una sucker torte fatta da una nostra amica, la baklava fatta da un'altra amica, e un dolce tipicamente sarajevese invece realizzato dal locale. Wow, quindi non potete mancare. Invece volevo chiederti una cosa riguardo alla storia d'amore fra Franz Ferdinand e la sua donna Sofia. Come sei romantica, Valentina. Ecco, lei non poteva farsi sfuggire la domanda, esatto, dettagli. Da novella 2000, anzi novella 1914. Beh, no, bisogna dire che giustamente per la par condicio, prima ho detto che era un personaggio molto antipatico ai più, Francesco Ferdinando, però va detto che aveva questa storia d'amore molto romantica, che in qualche modo lo fa rivalutare agli occhi nostri di oggi, e con Sofia, che appunto era una aristocratica di origine ceca, che però non era di lignaggio sufficiente per poter sposare un Asburgo. E quindi questa storia in teoria non avrebbe dovuto realizzarsi in un matrimonio, ma alla fine Francesco Ferdinando ha talmente insistito, è stato talmente convinto nel suo amore, che dopo anni e anni di fidanzamento è riuscito a convincere gli Asburgo a sposarsi, e quindi ha sposato Sofia con contro tutto e tutti, con un matrimonio che allora si chiamava matrimonio morganatico, che sostanzialmente prevedeva che Sofia non sarebbe mai diventata imperatrice e che quindi anche gli eventuali figli non sarebbero mai potuti diventare imperatori. Quindi infatti c'è figli... questa forma contrattuale per, esatto, diciamo, esatto, richiesta dalla famiglia. Infatti per, anche per adesso i, diciamo, gli eredi della famiglia non si chiamano Asburgo, portano il nome di lei perché non hanno la possibilità di chiamarsi Asburgo per questa ragione. E la cosa anche molto, insomma, romantica è che loro non avevano la possibilità di fare viaggi ufficiali, compiere viaggi ufficiali insieme, perché erano appunto uniti in matrimonio in questa maniera un po' particolare, non ufficiale. E in quell'occasione a Sarajevo è stata l'unica volta in cui hanno potuto farlo, erano passati 14 anni dal loro matrimonio, è stata l'unica volta ed è stata anche l'ultima. Insomma, c'è questo aspetto, sono stati uccisi tragico insieme. sì del, ecco, ci si commuove un po' anche per il povero Francesco Ferdinando, per quanto sì, potesse... anche Sofia, insomma, comunque, appunto, ritorniamo al discorso di prima, mi piace molto questo aspetto umano, no, delle storie. Allora andiamo ad ascoltarci uno degli ultimi brani che proponiamo oggi. Sì, direi l'ultimo. No, non è l'ultimo. No, la regia ha deciso di no, va bene. La regia ha deciso che non è l'ultimo. Loro sono gli EKV con Sarajevo. Sarajevo, od blata i snega, od tare mi inje sa očiju i čela. Izađi iz mene, izađi iz mene, pusti oči da vidiš ovaj put, pusti uši da čuju još ovaj put. Sarajevo, Sarajevo, kristal usjećanja, Sarajevo, od blata i snega, izbriši mi inje za očiju i čela, izađi iz mene, pusti oči da vidiš ovaj put, pusti uši da čuju još ovaj put. Sarajevo, Sarajevo, Sarajevo, Sarajevo. Gli EKV con Sarajevo, e su queste note vi salutiamo, vi ricordiamo tutti i nostri appuntamenti. Dunque, il 1 marzo a Via Boucheron 10 a Torino per la serata di crowdfunding e soprattutto discofanamenting di Cevapi, appunto Sarajevo City Food, primo marzo intorno alle 19:30. Troverete tutte le informazioni sul nostro gruppo Facebook Balkan Rock at My Radio. Invece per quanto riguarda gli aiuti, proprio per quanto riguarda il crowdfunding, ricordiamo www.produzionidalbasso.com oppure la pagina Facebook di Sarajevo Rewind, che è appunto Sarajevo Rewind, oppure ancora contattateci per maggiori informazioni. Vi lasciamo con un gruppo che si chiama Brkovi, un gruppo che fa... Sì, questo l'ho messo in scaletta apposta per Eric, qui piace Turbo Folk, so che questo è un Turbo Folk ibrido, è Turbo Folk Punk in realtà, uno potrebbe pensare che è una sorta di parodia o diciamo una cosa ironica, no? Ci si aspetta da un gruppo punk che mischia, utilizza le sonorità folk, invece no, allora dico no, voi ci fraintendete, a noi piace la musica folk balcanica e quindi anche turbo folk, quindi loro cercano semplicemente con gli strumenti che hanno a disposizione, cioè le loro conoscenze rock eccetera e punk, e fanno questo genere, quindi con le stesse tematiche, problemi amorosi, di soldi, le sfighe varie eccetera. Quindi, fantastico. Ecco, io avevo pensato che magari avresti apprezzato questi Brkovi, che vuol dire baffi, un gruppo che si chiama Baffi, pensa te. Questo brano si chiama Curva Procleta, e lo dedichiamo a tutti quelli che ci vogliono male. Va bene, vogliamo tradurlo? Curva Procleta non c'è bisogno. Non c'è bisogno. È facile. Insomma. Non c'è bisogno, e quindi niente, ci sentiamo la prossima domenica, speriamo, insomma, Eric, vieni a trovarci ancora, perché senza di quando ci saranno appunto gli sviluppi ulteriori, quando si avvicinerà la data dell'uscita, della release di questo, ma anche no, ma possiamo fare anche una puntata musicale, una bella puntata turbo folk, so che vi manca un po', vero? Faremo un sondaggio su questo, chiederemo ai nostri ascoltatori se sono d'accordo. Ok. Allora, Dovi Genia Svima, ciao a tutti, un saluto, ecco, e ci sentiamo i Brkovi, vai, Curvo Procleta, ciao. Se mi slomila, dušu zagrobila. Avete ascoltato Balkan Rock.